Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto mondo. That was a retweet. That was an opinion of somebody, and that was a retweet. I'll put it out there. People can decide for themselves. I don't take a position. You're not like someone's crazy uncle who can just retweet what. Scusa. Giulia, stai ridendo. Ma sì, perché insomma sono reduce un po' da una notte appunto piena di caffè in cui ho voluto vedere queste notti sì. Televisive americane. E poi per drammatizzare un po' prima di scendere mi sono rivista la parodia del dibattito Pence-Harris e ho scoperto nuove chicche. Però invece questa non è una parodia, questa è la realtà, è il momento in cui la giornalista Savannah Guthrie, che è una giornalista di NBC molto famosa perché conduce uno di questi Today Show, gli show del mattino, i contenitori del mattino, gli chiede, lei nei giorni scorsi ha ritwittato un tweet dei cospirazionisti di QAnon e lui dice sì, ma ho solo ritwittato, it was only a retweet, I put it out there, cioè l'ho ritwittato, l'ho messo lì fuori nel grande mare di internet. E la giornalista gli dice ma e Trump aggiunge poi ognuno può giudicare, e la giornalista dice no, ma non è una teoria non dimostrata e non è come se un crazy uncle, come se un vecchio zio un po' pazzo twittasse fuori controllo, lei è il presidente degli Stati Uniti. E questo è un tema, quello dell'eccesso di tweet di Trump, che sicuramente ricorre, perché solo nei giorni scorsi ha twittato che tutti gli stati che sono dati per democratici, lui semplicemente twitta California goes to hell, California va all'inferno, perché decide probabilmente di votare Biden. Questo uso, tra l'altro lui non vuole neanche parlare di Twitter, lui dice i social, io uso i social per... Non vuole neanche dirlo la parola Twitter, sì, perché non ce le ha, credo, molto simpatico. No, anche perché ultimamente hanno censurato o comunque hanno messo quell'avvertenza, queste informazioni non sono verificate e non sono attendibili. Quindi insomma, questa era soltanto una parte. Naturalmente del dibattito parlano tutti i giornali, ci sono le due foto, perché come hai detto tu non c'è stato un faccia a faccia sullo stesso palco ma a distanza. Trump è andato in onda su NBC e invece Biden su ABC, i due principali network americani. Poi ci sono Fox e CNN, che però sono via cavo, quindi sì, sono anche non necessariamente altrettanto accessibili. E poi però ci sono anche le notizie, naturalmente, sull'ennesimo, addirittura alcuni giornali parlano di terza ondata negli Stati Uniti di virus, è il più alto livello da agosto. E se vuoi sentiamo a questo punto anche altri due brani brevissimi di Trump e poi di Biden, che sono stati molto incalzati dai giornalisti. E diciamo che l'interpretazione di tutti i quotidiani è Trump ha fatto Trump e Biden ha fatto Biden, nel senso che ha cercato di mantenere forse quella calma che forse avrebbe potuto o dovuto mantenere anche nel faccia a faccia vero e proprio, dove invece ricordiamo sono volati insulti e toni per niente calmi e per niente amichevoli. Ma sentiamo Trump. But a lot of people agree I have done more for the African American community than any president with the exception of Abraham Lincoln. Che dice? Lo ricordavi tu qualche giorno fa, qui ha una domanda, perché si è svolta così il format. C'erano i due giornalisti che potevano fare delle domande, ma soprattutto rivolgevano al presidente domande raccolte sul web e dei pochi presenti per le normative Covid. Qui era una giovane madre afroamericana che diceva cosa posso dire ai miei figli? Posso dire che non verranno trattati con pregiudizi, per esempio dalla polizia? E Trump risponde: prima di tutto le voglio dire una cosa, la ripeto, io penso di essere il presidente americano che ha fatto di più per gli afroamericani, sì, ad eccezione di Abraham Lincoln, che naturalmente è il presidente che ha abolito la schiavitù. Quindi lui ha insistito su questo nonostante... Lui vola sempre alto, fa sempre paragoni. Comunque diciamo l'analisi è che Trump sia stato messo in difficoltà da questa giornalista molto forte, sì, che quindi in qualche modo abbia un po' perso ai punti. punti. Io vorrei sapere però gli ascolti. Hanno fatto perché, poi parodie su, sì, subito su Fox. Alla fine comunque sempre Trump domina la scena, è sempre lui il dominatore, quindi vedremo anche gli ascolti, poi, perché credo che questo poi sia un punto a suo vantaggio. Esatto, ricordiamo sempre che i sondaggi riguardano il voto popolare. A questo punto, facendo una media dei sondaggi, Biden 54, Trump 42, ma ricordiamolo, sono appunto i voti popolari, e sappiamo che Trump nel 2016 ha avuto 3 milioni di voti popolari in meno di Hillary Clinton. Quello che conta nel sistema elettorale americano sono i grandi elettori. Ma sentiamo anche Biden, poverino. What I would also do with regard to, there's no, the difference between me and the new Green Deal, they say automatically by 2030 we're going to be carbon free. Not possible. Ha detto anche lui New Green Deal, ho capito sì, bene. Sì, perché è molto pressato sia sì, sulla posizione sul fracking, che è quella particolare sì, pratica di estrazione del petrolio che fa molti danni ambientali e che quindi è avversata da molti, e sul Green Deal dice: io non sono per quelle posizioni che dicono entro il 2030 gli Stati Uniti devono essere carbon free, perché semplicemente non è possibile. Però poi spiega, se trovate nel sito nel mio sito e della programma del Partito Democratico, in realtà noi abbiamo un piano per l'ambiente, non così radicale, per il semplice motivo che sappiamo che non è possibile. Allora, che altro abbiamo invece sugli altri giornali? Lasciamo un attimino l'America. Sì, ma guarda, se vuoi, visto che siamo venerdì, una sì, piccola cosa curiosa è l'apertura di USA Today, che forse al di là dei dibattiti presidenziali non ne possono più, forse, i giornali, quindi c'è la notizia del Covid, e poi c'è questa notizia che dal 2011 sono aumentati moltissimo gli attacchi di cani di poliziotti a persone afroamericane. E vi do questa piccola curiosità: chi ha un cane, infatti prima ti ho chiesto, ma tu hai un cane, si sono molto diffuse queste pettorine K9 dei cani poliziotto nei confronti di afroamericani, sì, in particolare. Però anche in Italia ci sono queste pettorine K9 Julius, perché K9, se lo leggi in inglese, è sì, K9, cioè canino, ed è il nome che si dà familiarmente ai cani poliziotto. Il problema è che appunto per ragioni che possono anche essere casuali, però poi qui i numeri vengono messi nero su bianco, ci si focalizza su un caso recente, però appunto i cani poliziotto stanno diventando sempre più aggressivi, e quasi sempre questi attacchi sono verso afroamericani che non hanno fatto niente tranne magari a loro volta avere un cane da portare fuori. Allora, titoli europei, abbiamo qualcosa interessante sì, oggi? Sì, guarda, la cosa che mi ha fatto più effetto dagli inglesi, vabbè, la regina, la splendida regina Elisabetta II, che si è rifatta vedere in pubblico tutta di rosa vestita, come sempre con cappellino rosa, abbigliando da Dior, ma ha fatto molto scalpore. Nel Regno Unito si va molto molto con calma a criticare la regina, però ci sono alcune velate critiche perché non aveva la mascherina, e nel giorno in cui Boris Johnson cerca di convincere i suoi connazionali a queste misure, insomma, è sembrato un po' diseducativo. Però invece il Times, quindi giornale serissimo, non un tabloid, apre con questa foto di Dmitry Kiselyov, che è questa storia incredibile, fantastico. Allora, questo signore è dal 2013 è il capo dell'agenzia di stampa russa, è voluta da Putin, lo ha messo lì Putin, tipo l'ANSA russa, insomma. Esatto, è anche un anchorman di Russia One, e c'è la foto perché in questi giorni sta andando in onda questi brani di suoi interventi, dove spiega che il vaccino messo a punto da Oxford, nel quale sappiamo è coinvolta anche l'Istituto di Ricerca Italiano, un'azienda italiana, trasforma chi se lo inietta in una scimmia. Non è una parodia questa, cioè c'è la foto, ci sono... Il direttore dell'agenzia sì, di stampa russa ha detto che il vaccino di Oxford fa diventare come scimpanzé. Esatto, si trasforma in scimpanzé. Ridere o piangere. Veramente, gli americani lo chiamano propagandist in chief, quindi il re dei propagandisti, e naturalmente propaganda anti-americana. È molto popolare in Russia questo signore, Dmitry Kiselyov, cercatelo perché è interessante, poi sa benissimo l'inglese, quindi ci sono anche tante sue interviste, una molto lunga concessa alla CNN. Tra l'altro lui è anche famoso perché fa una parodia di Trump, quindi insomma un personaggio. Chissà come sta la figlia di Putin intanto, potremmo rispondere così, che ha preso quel virus, il vaccino. Qualcuno osa chiedere. Abbiamo pochi secondi, se sì, c'è ancora se, un titolo. Se vuoi, visto insomma in tema Covid, c'è in Israele riapre l'aeroporto Ben Gurion, quindi sì, in effetti il lockdown sta per finire, poi vedremo. E invece il South China Morning Post spiega che Hong Kong e Singapore si sono costruite quelle cosiddette bolle per evitare che tra le due località vengano imposte le quarantene. È importante perché Singapore, lo sappiamo, città-stato, finanziariamente importante per tutta l'Asia, e lo stesso Hong Kong. Quindi sembra appunto almeno di salvaguardare quella semi-normalità che è tornata nei rapporti finanziari economici nella Greater China. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, buon fine settimana, ciao da Alessio Maurizi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.